sei al mio fianco, la mia canzone stanotte. Gesù, ho bisogno, ho bisogno di te, ascolta. Cristo davanti e dietro me.